integrità. Non termina la lista delle cose da ottenere. Continuano a supporre. L'insolutezza cresce coi disagi del presente. Non sanno cosa scegliere. Adesso che i pensieri sono in preda al disincanto. Non sanno cosa scegliere. Adesso che i pensieri sono fuori dall'andazzo. Libertà è un errore di concetto. Felicità, una proibizione. Intelligenza è trovare differenze. Saggezza è eliminarle tutte quante. La libertà è un errore di concetto. Felicità, una proibizione. Intelligenza è trovare differenze. Saggezza è eliminarle tutte quante. Si annulla in un istante il muoversi rapsodico di tutte le domande. Accade come niente, formentano speranze e prigioni all'orizzonte. Ma cosa vuoi raggiungere? Quello che senti avverti non lo potrai mai scrivere. Ma cosa vuoi raggiungere? Che stai manipolando lo sviluppo del tuo apprendere. Libertà è un errore di concetto. Felicità, una proibizione. Intelligenza è trovare differenze. Saggezza è eliminarle tutte quante. La libertà è un errore di concetto. Felicità, una proibizione. Intelligenza è trovare differenze. Saggezza è eliminarle tutte quante. Un soffio di fede. È la verità che non trovi, il cambiamento, le parole. Non tornano i concetti, il linguaggio è scabroso. Ucciditi, tu che non hai limiti. Redimiti, tu che vuoi dei limiti. Ucciditi, tu che non hai limiti. Redimiti, tu che vuoi dei limiti.